sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Due barconi intercettati nel Mediterraneo e ancora braccio di ferro tra Italia e Malta. Un mese fa la scossa all'Aquila, 65.000 gli sfollati che attendono la ricostruzione. L'articolo 18 non è all'ordine del giorno in tempo di crisi. Sacconi presenta il libro bianco del welfare e invoca il confronto. Pronta la fiducia sul decreto sicurezza, la Lega chiede compattezza nella maggioranza, alla Camera rispuntano i franchi tiratori. Strage di civili in Afghanistan dai raid americani degli ultimi due giorni fanno almeno 100 morti. Ancora Petrucci alla guida dello sport italiano, il CONI sceglie la continuità e rinnova il quarto mandato. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. E partiamo con le notizie proprio di questi minuti, perché ci sono due barconi carichi di migranti che sono fermi da ore nel canale di Sicilia e sono in corso contatti tra Italia e Malta per capire chi dovrà portare soccorso. Insomma, si rischia un nuovo caso Pinar, così almeno sembrava fino a pochi minuti fa, poi è arrivata la svolta. Allora cominciamo da qui andando a capire cosa sta succedendo nel Mediterraneo. E con noi c'è Massimo Di Scienza. Sì, buongiorno. La situazione è assolutamente in evoluzione. Innanzitutto cominciamo con il dire che sono partiti due SOS distinti alle prime luci dell'alba questa mattina da due barconi diversi che si trovano circa a 50 miglia dal porto di Lampedusa. I due SOS sono stati ricevuti dalla Guardia Costiera di Palermo, che ha girato immediatamente le segnalazioni alle autorità navali maltesi. Infatti in quelle zone sono acque internazionali, pur essendo vicine a Lampedusa, la competenza per il SAR, cioè per le operazioni di recupero, spettano alle autorità maltesi. Esattamente quello che era accaduto una ventina di giorni fa con la vicenda che stavate ricordando del cargo Pinar, che aveva recuperato oltre 150 migranti. Sono 140 in questo caso gli immigrati a bordo dei due barconi. Le autorità maltesi in un primo momento avevano dichiarato la propria disponibilità a far partire gli interventi, soltanto che ormai a 8 ore dal lancio del primo SOS, le autorità maltesi ancora non hanno fatto pervenire le loro operazioni di soccorso sul posto. Ecco quindi la svolta. Pochissimi minuti fa, alla volta di questi due barconi, sarebbe partito un mercantile italiano per operare i primi soccorsi, quindi per andare ad intervenire sul posto. Peraltro la situazione politica è assolutamente in evoluzione, perché di questa mattina sono delle dichiarazioni molto pesanti da parte del presidente del Consiglio maltese Gonzi, che ha parlato di disgusto per la politica italiana nella gestione di queste crisi. Ha detto il premier maltese Gonzi: in questo caso l'Italia manca di umanità nel trattare gli immigrati. Evidentemente si aspettava un intervento da parte degli italiani. Peraltro questa mattina abbiamo anche raggiunto poco fa al telefono l'ammiraglio, il capo della Guardia Costiera italiana. Era a Genova, dove si è aperto il summit delle guardie costiere del Mediterraneo, dove ovviamente si è parlato di come affrontare il problema dell'immigrazione. Abbiamo chiesto all'ammiraglio Raimondo Pollastrini come funzionano proprio queste acque internazionali, come funzionano gli interventi di ricerca e soccorso nelle acque internazionali. Sentiamo. Le acque SAR sono acque destinate, cioè individuate, identificate per la ricerca e soccorso, search and rescue. Ciascun paese, in base a convenzioni internazionali, deve individuare una propria area SAR, di responsabilità SAR, e lo deve fare evidentemente quando ci sono paesi fronteggianti o limitrofi, lo deve fare in accordo con gli altri paesi, per individuare quindi aree SAR comunque condivise bilateralmente o multilateralmente. Una volta poi dichiarate l'acqua SAR, le acque SAR e riconosciute anche da tutti gli altri paesi, il paese ha responsabilità di portare il soccorso a coloro che si trovano in difficoltà o a rischio di perdersi in quell'area. E dunque staremo a vedere anche questa situazione come si concluderà. Queste due navi, ricordiamo, allora sono ancora nel Mediterraneo. E nel frattempo però oggi è una giornata un po' particolare. Andiamo in Abruzzo perché... con queste note, tra l'altro, andiamo in Abruzzo, dove è passato un mese dal terremoto che ha causato 298 morti, oltre 1500 feriti. Lo sciame sismico purtroppo non si è ancora fermato, gli sfollati sono 65.000. dei sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. La canzone che state ascoltando è quella dei 56 artisti italiani che hanno inciso in una sorta di We Are the Abruzzo, potremmo dire, per raccogliere fondi per la ricostruzione. Ci sono nomi come Ligabue, Giovanotti, Zucchero, Laura Pausini, Battiato, Carmen Consoli e moltissimi altri. L'obiettivo è raggiungere il 1 milione di copie vendute per donare il ricavato ai terremotati. Terremotati che da un mese ormai nelle tendopoli, nelle case lungo la costa, stanno provando a ricostruire quella che è ancora una città fantasma. Dall'Aquila salutiamo Stefano Totoro. Sì, buongiorno a voi nostri ascoltatori. Io mi trovo in questo momento nella direzione del comando centrale delle operazioni del terremoto e questa mattina sono stato in giro tra le tendopoli dove sono tutti gli sfollati, tutti i terremotati che a un mese dal terremoto ovviamente sperano di poter rientrare al più presto nelle loro case, non hanno ancora molte garanzie in questo senso. Questa mattina il sottosegretario Bertolaso ha comunicato che il 50% degli edifici è inagibile, un 15% degli edifici potrà essere agibile nel giro di breve tempo, mentre il restante, gli altri edifici saranno agibili si spera nel più breve tempo possibile, ma non si hanno ancora delle tempistiche certe. Questa mattina all'Aquila c'è stato un consiglio regionale, il primo consiglio regionale dopo la scossa del terremoto. Al consiglio regionale ha preso parte il presidente della Camera Gianfranco Fini. Fini ha detto bisogna che la magistratura accerti le responsabilità nella violazione di norme sulle costruzioni e soprattutto ha definito l'Aquila come capitale del dolore italiano. L'Aquila è stata la capitale del dolore, ha detto Fini, che appunto ha voluto lanciare questo messaggio anche di solidarietà nei confronti del popolo aquilano. Tra gli sfollati nelle tende ovviamente c'è la speranza, le tendopoli in questo momento sono fornite di tutto, ci sono dei camper, delle poste, uffici sanitari, cioè diciamo tutto quello di cui hanno bisogno i terremotati, che però continuano a ricordare ancora quei 30 secondi della scossa. C'è chi ricorda di essere stato... Di avervi avuto tutti i calcinacci che li sono... Stefano, allora sentiamo le voci che tu hai raccolto questa mattina proprio all'Aquila, un mese esatto dal terremoto, sentiamo. Ricordo un movimento fortissimo, il panico totale e il resettare completamente quella che sarebbe stata la reazione più sana, più logica o... la minima che ti consigliano in questi casi, quindi anche mettersi semplicemente sotto la rete. Per cui mia figlia che dormiva con me mi si è buttata addosso, mamma, il terremoto, di fatto la reazione è stata quella di rimanere impietrite. Sono stata fortunata più che altro perché se non fosse stato per le grida dei miei genitori non mi sarei nemmeno svegliata, in quanto dormivo profondamente perché queste scosse si susseguivano ormai da dicembre. Mi sono vista a casa quasi crollare addosso con i calcinacci in testa. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? E grazie a Stefano Totoro, questo è il ricordo dei terremotati che in Abruzzo aspettano ora una casa. E questa, la musica, ricordiamo ancora il CD per raccogliere fondi per i terremotati in Abruzzo. Da registrare anche che oggi intanto il Consiglio dei Ministri dal punto di vista burocratico ha dato mandato al Premier per presentare 3 emendamenti al decreto sul terremoto in Abruzzo, riguarderanno essenzialmente i contributi alla ricostruzione della prima casa e i poteri del sindaco e del presidente della regione. 33 anni fa, peraltro, proprio il 6 maggio del 1976, ci fu in Italia un altro terribile terremoto, quello in Friuli. Ne parleremo più avanti con un sindaco che la sua città l'ha già ricostruita, quella di Gemona. E sempre il Consiglio dei Ministri di oggi, però abbiamo cambiato argomento, ha anche approvato la fiducia al DDL sicurezza. Ieri era stata accolta la richiesta avanzata dal Presidente della Camera Fini di eliminare la norma sui presidi spia ed era stato deciso anche il ripristino della norma antiracket sugli appalti. Il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha chiesto compattezza alla maggioranza. Io ritengo che la questione di fiducia sia fondamentale, perché su questi temi, sui temi della sicurezza, non si può scherzare, non vogliamo scherzare, e chiediamo, il governo chiede alla sua maggioranza di essere sostenuto nella proposta che il governo fa. Sappiamo che ci sono sensibilità diverse, che ci sono opinioni diverse anche dentro la maggioranza o un partito della maggioranza, non certo la Lega, sulla questione dell'immigrazione, dei clandestini. Però questa è la linea del governo, di grande e totale rigore nel contrasto dell'immigrazione clandestina senza cedimenti. E intanto questa mattina alla Camera sono tornati i cosiddetti franchi tiratori. Un emendamento presentato dal governo che riguardava, per la verità, tutt'altro tema, il caso di prelievo forzoso del DNA, è stato bocciato durante il voto segreto. Assistenza, cure, sanità, lavoro, insomma il welfare che cambia. Oggi il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, ha presentato il suo libro bianco. Vincenzo Miglietta, buongiorno, quali sono le proposte? Sì, buongiorno. Guarda al futuro del modello sociale, dà conto delle grandi tendenze, dei limiti e delle potenzialità del modello italiano, dei valori quali la persona, la famiglia, le comunità. Il libro bianco presentato poco fa dal ministro welfare Maurizio Sacconi analizza a 360 gradi le interconnessioni nella società, con particolare attenzione, spiega Sacconi, ai 3 diritti fondamentali del lavoro: salute e sicurezza, apprendimento continuo ed equa remunerazione. Sul fronte lavoro in particolare il ministro rassicura: guardiamo al futuro, alle possibili evoluzioni, ma in tempi di crisi non si possono fare salti in avanti troppo evidenti. Il riferimento è all'articolo 18 e alle pensioni. Allora sentiamo Sacconi. In un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo, non possono essere all'ordine del giorno né le riforme degli ammortizzatori sociali, che fanno compiere un salto, una soluzione di continuità rispetto a quelli di cui disponiamo, né l'articolo 18. Non può essere all'ordine del giorno in un tempo di crisi. Non possiamo introdurre elementi che, anche se ritenuti alla fine virtuosi, però nel breve periodo, che è quello che ci interessa, perché nel breve potremmo sprofondare nel circolo vizioso della sfiducia se questo venisse incoraggiato. Grazie a Vincenzo Miglietta, questo è il ministro del welfare e di nuovo welfare, nuove politiche sociali, torneremo a parlare più avanti verso le 13.30, ospite il segretario della UIL Angeletti. Il premier Berlusconi intanto è ora in consiglio comunale a Roma per illustrare le novità del federalismo fiscale. Arriverà infatti Roma Capitale, cosa significa? In Campidoglio c'è Paola Cavadi. Sì, buongiorno. L'articolo 24 della legge sul federalismo fiscale, approvata il 29 aprile, attribuisce all'amministrazione capitolina, ribattezzata Roma Capitale, nuovi poteri, più risorse e maggiore autonomia. E questo in ragione del ruolo speciale di Roma, che, lo ricordiamo, oltre a essere la città più estesa d'Europa, con i suoi 129.000 ettari, è sede di organi costituzionali, 4 sedi diplomatiche, 29 organismi internazionali, ospita poi uno Stato sovrano, il Vaticano, all'interno della città, e poi ancora 3 siti patrimonio dell'umanità, insomma un ruolo e delle funzioni speciali che da oggi vengono riconosciute in un nuovo status. Ha partecipato alla discussione qui nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che non veniva in Campidoglio dall'aprile del 94, quando da Presidente incaricato incontrò l'allora Sindaco di Roma Francesco Rutelli. È un sogno che si avvera, ha detto Berlusconi, un sogno coltivato anche da un grande uomo e amico, Bettino Craxi. Poi il Cavaliere si è concesso una battuta: molti paesi paesi, ha detto, come la Finlandia che ho appena visitato, si sognano un patrimonio artistico come quello di Roma. Adesso si dirà, ha aggiunto il Cavaliere, che le mie parole hanno scatenato un incidente diplomatico, per questo preciso, a scanso di equivoci, che amo la Finlandia e soprattutto le finlandesi, ma ha precisato, purché siano maggiorenni. Grazie al governo, ha detto il sindaco Alemanno, perché in 10 mesi è stato raggiunto un obiettivo che ricercavamo da oltre 20 anni. E dal Campidoglio è tutto, a voi in studio. Grazie anche a Paola Cavadi. 13:20 minuti, prosegue GR24 Extra Large. In apertura ci siamo occupati dei due barconi intercettati nel Mediterraneo, 140 migranti a bordo, ancora una volta braccio di ferro tra Italia e Malta, e ancora una volta è un cargo italiano che sta intervenendo per prestare soccorso agli immigrati. Poi per la politica, è pronta la fiducia sul decreto sicurezza, il disegno di legge, la Lega chiede compattezza nella maggioranza, però alla Camera rispuntano i franchi tiratori e il governo è stato battuto su un emendamento che riguarda il caso di prelievo forzoso del DNA. E poi sempre per la politica, le nuove linee guida del welfare italiano presentate dal ministro del welfare Maurizio Sacconi, che però dice l'articolo 18 non è all'ordine del giorno in tempo di crisi. Ripartiamo con quella che non si può non definire una scelta nel segno della continuità. Il CONI ha scelto questa mattina il suo nuovo presidente ed è ancora Gianni Petrucci, quarta volta a capo dello sport italiano. Andiamo al CONI da Andrea Viali. Sì, dunque Anna, è così, Gianni Petrucci sarà anche per i prossimi 4 anni presidente del CONI, un incarico, lo ricordiamo, che ricopre già dal 1999. A rieleggerlo stamattina è stata l'Assemblea del Comitato Olimpico con 55 preferenze contro le 24 ottenute dal suo sfidante, che era Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf. A Petrucci spetterà ora il compito di guidare lo sport italiano verso le Olimpiadi di Londra 2012, passando per i giochi invernali di Vancouver, che si terranno invece nel 2010. Scuola, lotta al doping e finanziamento automatico sono le 3 priorità indicate dal numero 1 del CONI per il suo 4º mandato, ma sentiamo Petrucci. Il compito del CONI qual è, oltre quello di avere la certezza di finanziamento? È quello di ottenere dei risultati, di lavorare nell'attività di base, di entrare nella scuola, è quello di avere una lotta al doping. Tutte queste cose noi le stiamo facendo. Nella scuola è la scommessa per i prossimi 4 anni. Quello della scuola insieme al doping e il finanziamento automatico sono 3 obiettivi che dobbiamo raggiungere, altrimenti al termine dei 4 anni per me sarà un fallimento. Grazie Andrea Viali. Un mese fa, dunque, abbiamo parlato anche in apertura di Extra Large, la scossa di terremoto all'Aquila. Abbiamo fatto la cronaca della giornata in Abruzzo con i 65.000 sfollati che attendono ancora la ricostruzione. 33 anni sono passati esattamente dal terremoto del 6 maggio del 76 a Gemona in Friuli. Buongiorno a Ivano, benvenuti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. È il sindaco di Gemona, era sindaco allora. Qual è il vostro sentimento? Sono passati 33 anni, ma insomma non è una cosa che si dimentichi tanto in fretta. Per quanto riguarda chi vive adesso ancora nei container in Abruzzo, voi insomma le case le avete ricostruite tutte, così no? Sì, oltre alla grande solidarietà e alla vicinanza al popolo abruzzese, noi abbiamo rivissuto, guardando quelle immagini, la stessa tragedia che per noi è capitata 33 anni fa. Il messaggio che posso dare e do con tutto il cuore agli amici dell'Abruzzo è quello di tener duro. Sarà difficile in questa prima fase dell'emergenza, però devo dire, facendo il paragone ai 33 anni fa, quando non esisteva un'organizzazione così ben predisposta come è oggi la Protezione Civile, che le risposte immediate sono venute. Tener duro, avere coraggio e se ci sarà la solidarietà, come la sta dimostrando lo Stato attraverso il Parlamento e il Governo nazionale, riusciranno anche a risolvere il problema abitativo ed avere in un prossimo futuro vicino anche le case. Sindaco, ovviamente per voi sono passati 30 anni che sono davvero tanti. Quanti ce ne vogliono per uscire dall'emergenza? Ma l'emergenza ci vogliono alcuni mesi, perché il ripetersi dello sciame sismico porta molta apprensione nella popolazione. E quindi come la nostra esperienza del 76, che poi abbiamo rivissuto con il ripetersi del sisma del settembre, ha portato la situazione di allora ad trasferire tutta la popolazione sulla costa. Nel frattempo si sono calmate anche sono calmati gli animi, si è tranquillizzata la popolazione, abbiamo avuto il tempo di fare gli studi geologici per la verifica se era possibile ricostruire sui posti o sulle località dove i paesi sono stati distrutti, e diciamo dal maggio ai primi di aprile dell'anno successivo, quindi a distanza di 10-11 mesi, siamo tutti rientrati nei nostri paesi, nei prefabbricati. Un tempo record. Ivano Benvenuti, sindaco di Gemona nel 1976, ricordiamo. Anche in Abruzzo adesso le comunità locali chiedono di poter decidere loro come sarà fatta la ricostruzione, così come avete fatto voi. È questa la strada da seguire? La nostra carta vincente e la nostra, diciamo fra virgolette, fortuna nella disgrazia è stata proprio quello di essere noi sindaci e amministrazioni locali direttamente coinvolti nelle scelte, perché noi solo stessi, i paesi stessi, la gente stessa è in grado di fare le valutazioni e di capire realmente quelle che sono le situazioni locali. Grazie allora al sindaco di Gemona in Friuli, sindaco, primo cittadino il giorno della scossa nel 1976, il 6 maggio. Grazie per essere stato con noi, Ivano Benvenuti. Grazie a voi e tanti auguri agli amici abruzzesi. E naturalmente rinnoviamo anche noi questo augurio. Cambiamo però argomento. Sì, tiriamo un po' il fiato. Musica e internet, l'argomento. Negli anni siamo passati dalla condivisione, ritenuta però illegale, dei file musicali alla vendita successivamente dei brani online. Ora però sembra prendere corpo una nuova iniziativa a favore della musica gratis, che arriva inaspettatamente dall'organismo che tutela i diritti d'autore, la SIAE. Brani musicali diffusi sul web o sul telefonino liberi dal pagamento SIAE, brani che quindi potranno anche essere forniti gratuitamente. Un'apertura verso il web che arriva proprio dalla Società Italiana Autori Editori, inaspettata, annunciata dal presidente della SIAE, Giorgio Assumma. Il web è uno strumento eccezionale, ha detto da Palermo, e noi non vogliamo in alcun modo ostacolare la libera diffusione dei brani. Finora l'autore che aveva registrato in SIAE le sue opere non poteva liberarle. Doveva cioè essere la società a dare l'autorizzazione. Con la nuova regolamentazione annunciata, un autore, ad esempio, potrà mettere su internet una propria composizione anche a titolo gratuito per ragioni di marketing o scelta personale, facendo una semplice dichiarazione alla società. Per questo è stato istituito un pubblico registro delle opere musicali che potranno essere gratuitamente utilizzate su internet con l'indicazione dei rispettivi autori. E i cantanti? Chiamati in causa dal Sole 24 Ore, Antonello Venditti e Albano non sembrano molto d'accordo. Se c'è una cosa che già funziona fin troppo bene, dicono, è lo scaricamento gratuito clandestino, altro che favorire la musica gratis sul web. Favorevoli invece i Subsonica, che già in rete mettono brevi playlist dei loro brani, ma siamo già ai confini della generazione MySpace. Marta Cagnola, GR24, il Sole 24 Ore. 13, 33 minuti e 50 secondi in questo istante, riprende GR24 Extra Large. Due barconi intercettati nel Mediterraneo con 140 persone a bordo e ancora braccio di ferro tra Italia e Malta, è un cargo italiano che sta intervenendo per portare soccorso. Un mese fa la scossa all'Aquila, 65.000 gli sfollati che attendono ora la ricostruzione. L'articolo 18 non è all'ordine del giorno in tempo di crisi. Sacconi presenta il libro bianco del welfare e invoca il confronto. Pronta la fiducia sul decreto sicurezza, la Lega chiede compattezza nella maggioranza, ma alla Camera rispuntano i franchi tiratori. Strage di civili in Afghanistan. Dai raid americani degli ultimi due giorni fanno almeno 100 morti. Ancora Petruccia alla guida dello sport italiano. Il CONI sceglie la continuità e rinnova il quarto mandato. E abbiamo detto nella prima parte di Extra Large le parole del ministro del welfare Sacconi, che vuole riformare lo Stato sociale. Presentato oggi il libro bianco. Nel 2001 sempre Sacconi aveva presentato un altro libro bianco sul mercato del lavoro, a cui seguì poi la legge Biagi. Stavolta l'ambizione sembra maggiore, riguarda tutti i capitoli, dal lavoro all'assistenza alla salute, in una parola il cosiddetto welfare. Ne parliamo con il segretario della UIL, Luigi Angeletti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, premesso che, come abbiamo sentito dire a Sacconi, in tempo di crisi gli ammortizzatori sociali e l'articolo 18 non si toccano, il libro bianco presentato questa mattina però è piuttosto corposo e di temi ne presenta molti. Spero che non venga letto con pregiudizi, ha detto il ministro, ma voi che ne pensate? È il momento di aprire questi capitoli? Sì, gli obiettivi sono molto ambiziosi. D'altronde è un paese dove lo stato sociale è una realtà, ha bisogno di coniugare le opportunità, cioè i meriti, valorizzare i meriti e proteggere le persone che ne hanno bisogno. E questo questa è una sfida veramente decisiva per tutti i paesi avanzati, cosa che non si può più fare, come avveniva nel secolo passato, attraverso lo Stato. Bisogna farlo attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, gli enti bilaterali, per esempio, anche se la cosa è abbastanza sconosciuta, sono lo strumento più importante di partecipazione in un paese come l'Italia. E bisogna decentrare anche molte funzioni tipiche della protezione. Ecco, Angeletti, Sacconi questa mattina ha detto: sono ormai maturi i tempi per assetti regolatori e statuti normativi, leggiamo proprio pedissequamente, specifici per tipologia di settore produttivo, ma anche territorialmente diversificati, fermo restando uno standard protettivo minimo e omogeneo sul territorio nazionale. È questo che si intende per statuto dei lavoratori, dei lavori, anziché lo statuto dei lavoratori? Voi siete d'accordo su questo? Sicuramente, sicuramente. Proprio per le cose che dicevo prima, l'idea che lo Stato, il Ministero, lo Stato inteso come centrale nelle sue funzioni ministeriali, sia in grado di proteggere in maniera adeguata diverse persone che hanno diversi problemi in diverso tempo e di diversa natura, è una cosa veramente sorpassata, del secolo passato. Bisogna avvicinare sul serio certe funzioni agli usufruitori, quindi alle realtà territoriali. Devo fare i conti, le sto leggendo sempre una frase del ministro Sacconi, Angeletti, si devono fare i conti con la realtà che il costo della vita è diverso nelle diverse parti del paese. Di gabbie salariali non se ne vuol parlare, ma ci andiamo abbastanza vicino. Le gabbie salariali sono una cosa fuori dalla possibilità addirittura tecnica, non solo politica, di realizzarsi. Quello che va sviluppato è un'altra cosa, quello che noi cerchiamo di fare con il nuovo modello contrattuale, la contrattazione decentrata sia di azienda che di territorio. Questa è la nuova frontiera, un sistema contrattuale che sappia sul serio avvicinare quel ipotetico scambio tra la ricchezza che si produce e i vantaggi salariali che se ne ricavano. Angeletti, un'ultima cosa. Fiat, vogliamo cambiare per un attimo argomento. I sindacati tedeschi temono fino a 9.000 licenziamenti. Insomma, Marchionne stesso ha parlato quantomeno di risparmi dalla fusione fra Fiat e Opel. Per l'Italia ci sono, insomma, temete qualcosa sull'occupazione? Sicuramente, come dire, la ristrutturazione, se si farà, cosa della quale io ancora non scommetterei molto, è una ristrutturazione tesa a creare un gruppo industriale globale capace di produrre di un modello 1 milione di esemplari, perché questo consentirebbe ovviamente di abbassare i costi, e una ristrutturazione di questo genere ovviamente coinvolgerà tutti gli stabilimenti di questo eventuale gruppo, compresi quelli italiani. La nostra vera preoccupazione è un'altra, e che almeno la mia, che in una ipotetica trattativa tra governo tedesco e Fiat, il governo tedesco sta sotto campagna elettorale, quindi ha ovviamente pressioni e interessi, diciamo così, contingenti, imponga alla Fiat magari di guardare con un occhio molto più benevolo del normale gli stabilimenti in Germania piuttosto che quelli in Italia, e questo francamente a noi non ci può star bene. Grazie al segretario della UIL Luigi Angeletti per essere stato con noi. Si parla però ancora, diciamo, di indiscrezioni, soprattutto di trattative in corso. Allora cerchiamo anche di capire, per quanto riguarda la Fiat invece, a che punto siamo. Lo facciamo con Giulia Crivelli, buongiorno. E con quelle che sono le indiscrezioni, le paure invece, le speranze che arrivano dagli altri paesi coinvolti, vale a dire Germania e Stati Uniti. Sì, a proposito proprio di sindacati, sulla Berliner Zeitung, per esempio, un giornale di Berlino, ma comunque a diffusione nazionale, un sindacalista della IG Metall, che è il più grande sindacato tedesco, è il sindacato dei metalmeccanici, l'equivalente, diciamo, come ma molto più, con molti più iscritti e con molto più potere della FIOM, dice ovviamente che la preoccupazione è l'occupazione alla Opel. Bertolt Huber, questo è il nome del sindacalista, naturalmente spiega che vorrebbe a sua volta, abbiamo tirato in ballo il governo che, come ha giustamente detto Angeletti, è in campagna elettorale, e quindi Huber sollecita una presa posizione del governo. Sappiamo che del governo di Angela Merkel, sappiamo naturalmente che ieri Marchionne, ne abbiamo parlato proprio noi, ha garantito con un'altra intervista alla Bild Zeitung che l'occupazione verrà salvaguardata, che non ci saranno chiusure di stabilimenti, ma naturalmente bisogna poi vedere, perché le dichiarazioni possono poi dover scontrarsi con realtà diverse. Insomma, anche oggi grande attenzione, sì, ovviamente. Naturalmente anche sui quotidiani americani, perché poi lì il versante che interessa di più non è tanto quello della Opel, ma quello della Chrysler. Naturalmente ieri il Wall Street Journal dà notizia, oggi c'è questo via libera di tutti i giudici fallimentari che hanno in mano tutto il dossier Chrysler, eventualmente all'accordo con Bush, con Fiat. E poi c'è un interessante articolo sul Detroit News che parla di questo possibile culture clash, cioè lo scontro di culture, perché in questa possibile grande alleanza saranno sedute tre culture diverse: quella americana, culture proprio nel senso più ampio del termine, anche sindacali, anche di governance, ma proprio anche di personalità, quella tedesca, quella italiana e quella americana. In passato non sempre questo è stato uno svantaggio, però è ovvio che ci sono sempre delle difficoltà. Noto infine, perché mi diverte quasi, il tono invece che usano i giornali francesi. I francesi, che hanno una stanno alla finestra, una grande industria automobilistica che sembra un po' esclusa da questo grande scacchiere, e quindi sono tutti o dal relegare la vicenda in pagina, poco spazio, oppure addirittura quasi scommettere sul fallimento di questo grande accordo transoceanico. E va bene, un po' di rivalità resta ancora. Grazie Giulia Crivelli. Abbiamo fatto poco fa un passo indietro nella storia per parlare di terremoto, ne facciamo un altro per raccontare di un episodio che ha segnato la storia italiana. Parliamo della strage di Piazza Fontana a Milano, delle indagini della polizia, la pista anarchica e poi la morte di Giuseppe Pinelli precipitato dalla questura, e poi l'omicidio del capo della polizia calabresi. A 40 anni di distanza la vedova dell'anarchico Pinelli sarà al Quirinale dal capo dello Stato per l'anniversario della morte del marito il 15 dicembre 1969. Il commento è di Daniele Biacchessi. Quasi 40 anni sono passati dalla notte tra il 15 e il 16 dicembre del 69, quando l'anarchico Pino Pinelli volò dal quarto piano della questura di Milano durante un interrogatorio, accusato ingiustamente di aver organizzato insieme a Pietro Valpreda la strage di Piazza Fontana, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, 17 morti e 100 feriti. 40 anni dopo, per quella morte c'è un risarcimento dello Stato. La moglie del ferroviere, Licia Pinelli, sarà presente alla cerimonia del Quirinale, invitata dallo stesso presidente Napolitano, insieme ai familiari delle vittime di Piazza Fontana, nella giornata in memoria di chi è stato colpito da strage e terrorismo politico. La scelta di Napolitano non intende entrare nel merito delle inchieste, delle polemiche sulla morte di Pinelli. 6 anni dopo la sua morte, il giudice Gerardo D'Ambrosio stabilì che il commissario Luigi Calabresi non era presente quando l'anarchico cadde dal quarto piano della questura, ma non si è trattato di un suicidio come le prime false piste investigative suggerirono alla stampa. La scelta di Napolitano ha invece il senso della storia, un risarcimento tardivo ma importante. alla 18ª vittima della strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 69, il giorno in cui perdemmo l'innocenza. Qual è il lavoro più bello del mondo? Una domanda che può sembrare oziosa. Forse ognuno avrà il suo parere. Ognuno sicuramente avrà il suo parere, però c'è una risposta che è arrivata oggi. Sentiamo. Immaginate di essere soli in un atollo incontaminato della barriera corallina, di fare immersioni, escursioni, quando volete, quante volte volete, di avere come unico compito quello di prendere il sole, aggirarvi fra i boschi, esplorare i fondali marini e aggiornare un blog una volta a settimana. E per questo, solo per questo, guadagnare 150.000 dollari americani, circa 75.000 euro. State pensando che tutto ciò sia impossibile, soprattutto in un periodo di crisi economica che rosicchia anche le vacanze low cost? Non per Ben Soutal, un britannico 34enne che ha vinto il concorso Il miglior lavoro del mondo. Concorso indetto dall'ufficio del turismo del Queensland, un piccolo stato dell'Oceano Pacifico sotto la giurisdizione australiana e pubblicizzato dai quotidiani di 21 paesi. Per 6 mesi di, chiamiamolo pure lavoro, Ben Soutal avrà l'onere e l'onore di rilanciare il mercato turistico dell'isola di Hamilton, promuovendone l'immagine attraverso il sito web. Soutal, che lavora nel campo del volontariato, si è distinto per capacità interpersonali e particolare attitudine all'avventura, battendo così i 15 finalisti dei 34.000 partecipanti al concorso. Nessun italiano in finale. Un pizzico di invidia spingerebbe a dire: cosa importa? A noi piace guadagnare con sudore. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. GR24 extra large, le 13:48 minuti. Nella prima parte abbiamo seguito la vicenda dei due barconi intercettati nel Mediterraneo con 140 migranti a bordo. È ancora a braccio di ferro tra Italia e Malta. È un cargo italiano che sta intervenendo. Pronta la fiducia sul decreto sicurezza. Il governo decide di blindare la misura sulla sicurezza. Lega chiede compattezza alla maggioranza, però alla Camera rispuntano i franchi tiratori. Il governo è andato sotto su un emendamento. Poi abbiamo parlato della riforma del welfare presentata oggi dal ministro del welfare Sacconi. Ha detto l'articolo 18 non è all'ordine del giorno. Il segretario della UIL Angeletti ai nostri microfoni ha detto: siamo pronti a superare il modello nazionale, le protezioni devono essere articolate sul territorio. E come abbiamo anticipato, andiamo dunque ora in Afghanistan, dove sono oltre 100 i civili, tra cui donne e bambini, rimasti uccisi nei raid aerei statunitensi tra ieri e lunedì. La notizia arriva ufficialmente da Kabul e dopo le prime informazioni già arrivate dal Comitato della Croce Rossa Internazionale, di cui vi abbiamo parlato anche noi ieri. Proprio questa sera a Washington, peraltro, il presidente Barack Obama incontrerà quello afghano Hamid Karzai. Allora, salutiamo Alberto Negri, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Alberto, non è la prima volta che il governo di Kabul accusa l'America di questo tipo di raid. Stavolta però quanto peserà questa notizia? Ma io credo che costituisca purtroppo un tragico punto di svolta, perché credo che davanti agli occhi di tutti apparirà quello che accade davvero in Afghanistan. Cioè, in Afghanistan è in corso una guerra non convenzionale, una guerra che non si combatte nei campi di battaglia, ma nei villaggi, nelle zone urbane, e che quindi fa anche molte innocenti vittime civili. Alberto, spostandoci rapidamente in Iran, un'altra zona che è cruciale naturalmente anche per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, ricordiamo il vertice di questa sera tra Obama, Karzai e il presidente pakistano. Qua però parliamo di Iran, perché si parla di possibili contrasti in vista delle elezioni presidenziali tra il presidente Ahmadinejad e l'Ayatollah. Che scenari potrebbe aprire questa notizia e che conferma c'è? Beh, per ora non ci sono conferme se non delle cronache che ci dicono che Khamenei, cioè la guida suprema, esige dal presidente Ahmadinejad il reintegro di uno dei ministri che erano stati fatti fuori dallo stesso Ahmadinejad qualche giorno fa. In realtà ci stiamo avvicinando a questa data elettorale con due candidati sicuri, tre anzi. Uno è Ahmadinejad stesso, che vorrebbe la riconferma, l'altro è Mir Hussein Mousavi, Savi, che è un esponente, come dire, di stampo riformista, ma che in realtà ha una lunga storia alle spalle, è stato già primo ministro proprio negli anni Ottanta, quando presidente era Ali Khamenei. E poi c'è un altro riformista, Mehdi Karroubi, e forse avremo anche candidato un ex capo dei Pasdaran. Cosa succederà da qui a giugno? Credo che quello che sta facendo Khamenei è quello che fa di solito il capo, la guida suprema, cioè prendere apparentemente le distanze da tutti i candidati alle elezioni per poi alla fine cercare di amministrare la situazione come uomo supra partes. Grazie ad Alberto Negri, anche questa, dicevamo, un'area cruciale dall'Iran. In Iran i riflettori restano molto accesi in questi giorni perché per la vicenda della giornalista iraniano-americana arrivano indiscrezioni sulla sua sorte. Cosa potrà succedere a Roxana Saberi? All'inizio della prossima settimana, lunedì o martedì, ci sarà il processo di appello. La pena di 8 anni potrà essere ridotta o forse il verdetto potrà essere persino annullato. L'avvocato difensore è fiducioso. A Teheran si fa pressione perché Roxana sia scambiata con i 5 diplomatici iraniani rapiti dagli americani in Iraq. 5 diplomatici, ma forse si tratta di 5 importanti generali dei Pasdaran, le guardie rivoluzionarie. Se Roxana sarà liberata, sarà anche merito della diplomazia svizzera, che da 30 anni cerca di mediare tra Teheran e Washington. Ma non bisogna sottovalutare l'intervento diplomatico di un altro paese, il Giappone. E sì, perché Roxana ha passaporto americano e iraniano, ma sua madre è giapponese. In questi anni Tokyo ha portato avanti diverse trattative, tra cui la liberazione di uno studente giapponese rapito nelle zone tribali dell'est dell'Iran. Una trattativa, quella, che aveva irritato l'ex presidente americano George W. Bush nel momento in cui la diplomazia giapponese aveva incontrato quella iraniana in occasione di un summit internazionale. Il Giappone è un partner commerciale importante, compra energia dall'Iran che da quando è nell'asse del male guarda sempre più a Oriente. Comunque vada, a Roxana andrà meglio che a tanti dissidenti che hanno un solo passaporto, quello iraniano. Di loro si parla meno, si fa meno rumore, ma non per questo vanno dimenticati. Farihan Sabahi, GR24, Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. In studio Alessio Maurizi e Anna Migliorati, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Vi aspettiamo come sempre domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.